Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:05 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. Siamo in diretta, come annunciato, da Pitti, quindi la fortezza da basso a Firenze, dove si tiene anche quest'anno l'appuntamento più importante per la moda maschile e comunque uno degli appuntamenti più importanti in assoluto per il settore della moda. 84esima edizione si concluderà il prossimo 21 giugno, 1043 marchi presenti con quasi il 40% di aziende straniere. Ci sono anche collezioni donna, per chi fosse interessato, ma in realtà noi oggi ne parliamo perché il settore della moda vale sostanzialmente, come giro d'affari fatturato, 60 miliardi di euro in questo paese, ma ne vale soprattutto 5 miliardi quanto esportazione, e le esportazioni vanno bene nel settore della moda. Quello che va male, e purtroppo non è l'unico settore, anzi la maggior parte, sono i consumi interni. L'ultimo dato, infatti, più 4% le esportazioni, meno 9% le importazioni, ma soprattutto anche i consumi, e poi ne parleremo, i consumi e le vendite sul fronte nazionale. Risultato, sostanzialmente, noi abbiamo ancora un saldo commerciale positivo, quindi esportiamo più di quello che importiamo per mezzo miliardo di euro, ma dentro la fotografia è molto sgranata. Ci sono i gruppi del lusso, i grandi marchi che vanno benissimo, lo vediamo anche in borsa, ci sono i gruppi medi o piccoli che fanno molte più difficoltà. Anche in questo caso è un ragionamento già sentito, ma vale la pena ripeterlo: fanno difficoltà perché hanno maggiori difficoltà ad andare sui mercati più distanti. La metà della moda italiana ormai viene venduta fuori dall'Europa, il 53% infatti è la parte di export europeo, tutto il resto lo fanno i paesi, e soprattutto i paesi emergenti. Lì occorrono i soldi, occorre la massa critica, la liquidità per andarci, e non sempre le nostre aziende ce la fanno. Ne parleremo con i principali esponenti di questa manifestazione. Come sempre racconteremo anche la giornata economico-finanziaria, che oggi vede due cose sostanzialmente. Il disegno di legge del governo sulle semplificazioni è un po' slittato l'appuntamento, per cui da questo punto di vista sostanzialmente riusciremo forse a darvi un aggiornamento sulla base anche di quelle che sono le indicazioni già emerse, e mi riferisco in primo luogo al tutor per le imprese. Vedremo quante e che tipo di efficacia avrà, ma anche a tutto un insieme di sostanzialmente semplificazioni di carattere burocratica che dovrebbero agevolare non solo le nostre imprese ma anche gli investimenti verso le nostre imprese. Parleremo però, è un disegno di legge, lo dico per inciso, con 39 articoli, quasi tutti incentrati sulla semplificazione amministrativa, una banca dati unica delle amministrazioni pubbliche, appunto la figura del tutor, e poi eliminati gli obblighi di licenza per le imprese di spedizione, vincoli meno stringenti anche per le imprese di costruzioni. A questo proposito, oggi sulle costruzioni è arrivato un nuovo allarme dell'ANCE, l'associazione che riunisce il mondo delle costruzioni italiane, dell'edilizia. Sono fallite nel 2012, l'anno più nero a questo punto, possiamo dirlo, della crisi, 11.177 imprese. Dall'inizio della crisi, dal 2008, i posti di lavoro persi nell'edilizia sono stati quasi mezzo milione, e se aggiungiamo i settori collegati siamo a 670.000 persone, fa notare l'ANCE, praticamente come l'intera popolazione di Palermo che è scomparsa e che prima invece lavorava nell'edilizia. Questo dato si aggiunge a un altro dato di cui parleremo più avanti, mi riferisco ai dati diffusi dalla Confesercenti. Come già ricordavo, in queste settimane si accavallano, si susseguono tutte le assemblee delle più importanti associazioni datoriali, Confindustria, Commercio, Confartigianato, oggi anche Confesercenti. Ahimè, la fotografia è molto simile, a dimostrazione che questa recessione, crisi, sta funzionando purtroppo come una livella, nel senso che anche da Confesercenti arriva l'allarme sull'ecatombe, definita ecatombe, nella chiusura di negozi e imprese tra il 2008 e il 2013, fra il mondo del commercio e il mondo del turismo. Mancano all'appello 224.000 titolari, Praticamente ogni giorno, ha spiegato il presidente Marco Venturi, chiudono 5 negozi di ortofrutta, 4 macellerie, 42 negozi di abbigliamento, e qui entriamo anche nel tema di questa puntata, 43 ristoranti e 40 pubblici esercizi. E poi c'è anche una fotografia sull'economia illegale, che è all'11% del PIL, ossia non paga tasse e contributi, siamo intorno ai 174 miliardi. A proposito di tasse e contributi, ne parleremo, perché ci sono alcuni dati interessanti. Da un lato la classifica su quanti siano gli italiani che possiedono più di 1 milione di euro di patrimonio oltre alla casa, è diffuso il World Wealth Report, ne abbiamo parlato già ieri, come sempre la diffusione la fa Capgemini, in cui abbiamo visto che i miliardari erano cresciuti a livello mondiale, più 9%, i paperon dei paperoni. E dicevo, però, la cosa interessante è che in Italia c'è un numero elevato, l'Italia è al decimo posto, di cui 2.000 super ricchi, oltre 30 milioni di dollari, ma soprattutto 176 milionari. Anche questo è interessante, perché sono cresciuti i milionari del nostro paese, la crisi evidentemente morde, ma non dappertutto, sono cresciuti di un 5%, di 7.500 unità. 7.500 persone sono diventate, sono entrate nella classifica dei milionari, che ripeto include il patrimonio senza considerare però l'abitazione, e quindi hai una liquidità da investire per oltre 1 milione di dollari, e in tutto sono 336 miliardi di dollari. E questo è interessante, perché invece il dato molto molto più magro era quello che riguardava gli italiani che dichiarano di guadagnare più di 300.000 euro lordi, che sono una pattuglia esigua, se non ricordo male, 28.000. Ora è un po' difficile un paese che ha 28.000 per contribuenti che dichiarano di guadagnare 300.000 euro lordi, e però ha 176.000 milionari, quindi che hanno 1 milione di euro di liquidità almeno da investire. Voi capite già la mappa dell'evasione di questo paese, che ripeto, va combattuta su tutti, anche sui piccoli artigiani, sui commercianti e quant'altro, però soprattutto, visto che deve essere anche proporzionale, soprattutto quando leggi queste cifre, chiariamoci, con 300.000 euro dichiarazione dei redditi, è un'ottima, una bellissima dichiarazione dei redditi, difficilmente si riesce però a diventare milionari in così breve tempo, e soprattutto i dati non tornano, 28.000 da una parte e 176.000 dall'altra. Non so, potrebbe essere interessante come indicazione per il fisco, al di là degli studi di settore e della comprensione o meno di quanto moda la crisi sul mondo delle piccole e medie imprese. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo come sempre dalla borsa, oggi negativa di uno 0,65%, Parigi meno 0,35%, Francoforte meno 0,30%, devo dire che da questo punto di vista l'America è sostanzialmente invariata, l'euro è quota 1,34%, molto bene oggi media, 7 più 5, 32%, ne parleremo chiaramente, Diasorin più 4%, Finmeccanica più 2,30%, Saipem più 2%, Tenaris più 1,30% come Tods. Perde invece Telecom Italia il 3,10%, Azimut il 2,40% come la Popolare Emilia Romagna, il 2,20% lo perde la Popolare di Milano e Parmalat, l'1,70% il calo del Monte dei Paschi, l'1,5% quello di Terna e di Intesa San Paolo, ma anche di Fiat ed Exor, l'1,20% lo perdono sia Enel che Fiat Industrial che Enel Green Power. Questo per quello che riguarda i mercati. Le altre notizie, dicevo, di questa giornata economico-finanziaria, dichiarazione interessante oggi, devo dire non è la prima volta, è ormai qualche settimana che Angela Merkel torna sul tema, mi riferisco chiaramente alla cancelliera tedesca, che ha detto è sbagliato indebolire i paesi in cui esportiamo. È sbagliato indebolire i paesi in generale, se stai in Europa, aggiungerei io, e se hai la stessa moneta unica, se ci chiamiamo europei, se facciamo la casa europea, però... Ha detto Angela Merkel, vogliamo prosperità, competitività e meno disoccupazione giovanile, e alla Germania andrà bene sul lungo periodo solo se anche il resto d'Europa andrà bene, e già questo è un po' diverso. Però occorre ridurre la burocrazia, portare avanti le riforme strutturali e puntare sulla ricerca e innovazione. Sarebbe sbagliato se lo portassimo avanti una politica che indebolisca i paesi in cui esportiamo. Il Fondo Monetario Internazionale invita oggi la Spagna, nel suo rapporto, a riconoscere le perdite delle banche. Il sistema bancario spagnolo occorre che ammetta le sue perdite, che le metta velocemente a bilancio e che gli asset, quindi le partecipazioni in perdita, vengano vendute. Il sistema bancario spagnolo, continua il Fondo Monetario, è significativamente più forte, ma restano molti rischi. Chiede sempre il Fondo Monetario un'azione urgente per generare crescita e posti di lavoro in Spagna e in Europa. Però anche in Spagna, come in Italia, evidentemente è una caratteristica dei paesi latini, la crisi morde tantissimo, la disoccupazione è a record europeo, ma aumenta il numero dei paperon dei paperoni. Come da noi, l'anno scorso anche in Spagna più 5% il numero di chi ha almeno $1 milione da investire, quindi al di là della casa e degli immobili. È interessante che due paesi piegati dalla crisi come Spagna e Italia abbiano visto crescere, chiaro che sono percentuali piccole, però vedere che in Italia ci sono stati 7.500 milionari in più, bene, bene, vuol dire che insomma la crisi non morde dappertutto. Ancora per quello che riguarda i dati italiani, oggi la Corte dei Conti segnala, e devo dire che ce ne eravamo accorti anche noi, un dato impressionante, ossia la pressione fiscale in questo paese, che evidentemente non vale per tutti, però per chi le tasse le paga, la pressione fiscale ormai si è impennata fino al 53% del PIL. Ricordo che ormai siamo a livelli doppi rispetto agli anni 80. Non che uno voglia imitare gli anni 80, perché lì si creò il debito italiano, però attenzione che negli anni 80 si viaggiava con una pressione fiscale che era più o meno il 28% del PIL. Sì, ha ragione l'ascoltatore che chiede se nel disegno di legge sulla semplificazione amministrativa vi saranno anche le misure per le successioni ereditarie. Da quello che abbiamo capito, per i lasciti fino a 75.000 euro a favore di coniuge o parenti in linea diretta non sarà necessaria alcuna dichiarazione al fisco. Allora, primo tema per quello che riguarda questa puntata, e mi riferisco alla moda e quindi alla 84esima edizione di Pitti, che Pitti Uomo a Firenze. Ma al di là degli addetti ai lavori e di chi è appassionato di moda, a noi interessa soprattutto il dato economico su un settore che è uno dei quattro settori principali del nostro export, la A di abbigliamento. Sentiamo la scheda. Come accade sempre più frequentemente, le buone notizie arrivano quasi solo dall'estero. A fronte di consumi interni scesi del 5,7% lo scorso anno, la moda maschile italiana è invece apprezzata e acquistata all'estero. Le vendite oltre confine sono infatti salite del 3,8%, con il valore delle esportazioni, pari a 5 miliardi di euro, tornato a livelli pre-crisi. Sul fronte dell'import, andamento opposto, meno 9,3%. Grazie a questa dinamica, la moda maschile italiana ha migliorato il saldo commerciale. Guadagnando 546 milioni in un anno, il surplus ha superato il 1,5 miliardi di euro. Con riferimento agli sbocchi commerciali, spiccano i mercati extra UE, più 9,1%. A fronte invece di un mercato comunitario sceso dello 0,6%. L'Europa resta comunque il maggior acquirente, con una quota del 53,3% sull'export totale di settore. Se la Francia, pur confermandosi il primo mercato, ha deluso con un meno 1,5%, il Regno Unito ha invece registrato un aumento vicino al 10%. Positive anche le vendite in Germania, più 3,5%. Guardando più lontano, spiccano gli Stati Uniti, terzo mercato di sbocco, con il nostro export salito del 19%, il Giappone più 20%, la Cina più 15% e la Russia più 3,5%. Infine, anche nel 2013 dovrebbe proseguire l'andamento complessivamente positivo della moda maschile italiana, ancora una volta grazie al contributo della componente estera. Questi dati del settore, quindi, come dicevamo, anche la moda, anzi soprattutto la moda, non sfugge a quella che è la dinamica dei consumi che vediamo ormai purtroppo da 2-3 anni in questo paese: crollo o calo pesante dei consumi interni, bene l'export. In un settore che, come dicevo all'inizio, è uno dei settori più colpiti dalla crisi, ma non solo dalla crisi, anche dal cambio culturale, dalla neosobrietà. Assieme all'automobile, noi abbiamo visto fin dall'inizio contrarsi i consumi per abbigliamento, le spese per abbigliamento. In questo paese, dicevo, il valore dell'export è tornato ai livelli pre-crisi, ma sul fronte dei consumi interni il meno 6% nel 2012 e comunque iniziando già meno 7% nel fatturato italiano, con un meno 9% negli ordinativi, la dicono lunga su quanto difficile sarà anche questo 2013. Ne parliamo con l'amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. La domanda è molto semplice: quanto riesce a reggere un sistema come quello della moda italiana, cioè una delle 4A fondamentali nel Made in Italy, solo con l'export? Beh, credo che ci siano dei dati oggettivi su cui riflettere. Sicuramente il mercato interno nella storia del tessile e abbigliamento italiano è stato un motore straordinario. Sicuramente oggi questo motore si è inceppato e probabilmente prima di tornare a girare a pieno regime ci sarà del tempo. Nello stesso tempo, rispondo alla domanda, l'export per me ha delle grandissime potenzialità di compensazione di questo calo, anche perché, guardando i dati, l'export italiano intra comunità europea è pari al 53%, quindi ha comunque un ruolo importante che deve essere mantenuto, ma l'export verso i paesi extra comunità europea ha dei margini fenomenali. Noi esportiamo di questo importante fatturato, che viene fatto di 5 miliardi e 368 milioni, verso gli Stati Uniti solamente il 9,5% di questa cifra. Cioè gli Stati Uniti sono ancora un mercato che può crescere molto ed è un mercato evoluto, così come altri paesi che possono essere la Russia, più che il Giappone, Hong Kong e Cina, che hanno delle percentuali molto basse. Quindi credo che la potenzialità di crescita dell'export è esponenziale. Il vero problema è che sono le piccole e medie imprese che fanno questo grande fatturato, che hanno bisogno in questi nuovi mercati di essere sostenute. Il problema sta lì. E qui arriviamo anche al ruolo del sistema fieristico barra camerale, nel senso che poi ci sono tanti modi per promuovere l'export di un paese. Uno di questi può essere utilizzare, lo dico perché nel mondo del vino c'è un caso simile a Pitti, che vive in Italia, di cui noi ci occupiamo, in cui siamo presenti, che si occupa anche di portare i produttori poi nei mercati lontani. Avendo una struttura più grossa rispetto alle dimensioni piccole del piccolo produttore, potrebbe valere anche nel caso di Pitti, per esempio, o anche nel caso di altre manifestazioni. Cioè il grande ci arriva da solo, i grandi nomi del lusso italiano, oltre che quotati in borsa, sono molto quotati in questi mercati. Il piccolo produttore, forse, se va con Pitti, riesce a sostenere i costi. È una buona riflessione. Credo che non sia omogeneo il vino rispetto alla moda. Ci sono dei sistemi di distribuzione assai differenti, anche perché, come sappiamo, il grande business del vino si fa con la ristorazione e soprattutto in certi mercati con una distribuzione che è legata ai regali, in particolare nei paesi emergenti come la Cina. I grandi fatturati vengono dal fatto che il vino viene visto come un'occasione diciamo festaiola e per riconoscere rapporti di un certo tipo. Tuttavia è vero che sull'estero si può far meglio sia dal punto di vista fieristico che dal punto di vista delle singole promozioni che possono essere fatte nei singoli paesi o con le grandi catene di distribuzione. Pitti Immagine ha fatto una scelta molto precisa: non va all'estero con il marchio Pitti Immagine, in quanto è difficilmente replicabile l'atmosfera magica che c'è qui in Fortezza Firenze, ma una società che si chiama Ente Modo Italia, che è al 50% diciamo di fiorentina, al 50% milanese, con il sistema Modo Italia, che già porta all'estero, in Russia in particolare, più di 350-380 aziende per stagione, con dei gran buoni risultati, lo fa anche in altre nazioni. Ma il vero problema è il posizionamento delle aziende piccole e medie, che deve essere in qualche modo sostenuto. I grandi hub distributivi guardano ai marchi affermati, e per le piccole aziende bisogna studiare dei sistemi di incentivazione, perché queste catene di distribuzione incentivano gli acquisti. Su questo, restando sul tema dei piccoli e dei medi, insomma, la vulgata o la sensazione è che nel mondo della moda la polarizzazione sia stata più forte che altrove. Mi spiego. I sommersi e salvati dalla crisi in poi, tra i salvati abbiamo le grandi catene low cost, non so come altrimenti chiamarle, mi riferisco a Zara e H&M, anche il nostro Benetton, e poi i grandi marchi del lusso, che traggono vantaggio da un lato della forte domanda che arriva dai paesi emergenti, e poi comunque anche dal fatto che ormai, diciamolo a tutte le buone signore della buona borghesia italiana, mettere una cosa low cost, non voglio far nomi per non fare pubblicità, e un altro capo d'abbigliamento invece del lusso, li mischiano assieme. La sensazione è che chi ha pagato di più questo cambio, ripeto, non solo di potere d'acquisto ma anche un cambio culturale di neosobrietà, siano state le fasce in mezzo, cioè chi non era né lusso lusso ma non riusciva neanche a proporre dei prezzi low cost perché non aveva economia di scala. Che quale può essere il futuro per questa fetta, che è una fetta consistente poi del sistema Moda Italiano? Allora, il sistema Moda Italiano fa a cazzotto, come si usa dire in Toscana, intorno ai 60 miliardi di euro di fatturato. Diciamo che i grandi marchi fanno 20 miliardi di tutto questo. Sono stato generoso, sono andato per eccesso. Il ventre molle del nostro settore sono 40 miliardi di euro di fatturato tra tessile, abbigliamento e accessori. Ora, questo mercato è un mercato che esiste ancora, esiste in Italia come esiste attraverso soprattutto i canali multimarca in Europa e in tutto il mondo. Quindi credo che questo mercato, che ha sofferto di una qualità di prodotto fino ad oggi non così alta come avrebbe dovuto essere, sta facendo un grandissimo sforzo per elevare il suo posizionamento. Il PT Uomo ne è un esempio straordinario. Ormai in tutte le sezioni, che sia il piccolo artigiano di make che fa proprio poche unità di prodotto, che sia Touch, dove c'è l'abbigliamento contemporaneo, classico e in qualche modo rivisitato, è arrivato a un livello di qualità, di progettazione, di uso di materie prime tali per cui è molto vicino alla parte alta del mercato. Quindi la realtà è che si sta allargando, come si è detto tante volte, la parte alta della piramide, alzando la parte bassa con maggior valore aggiunto, e si restringe la parte media. Quindi lei sta già dando la risposta all'altra domanda che avevo, e cioè la scelta deve essere per forza di spostarsi verso l'alto. Non possiamo iniziare a competere, perché noi siamo stati, anche lo dico con massimo rispetto, a me un po' fa rabbia vedere che gli spagnoli, gli svedesi ci hanno in qualche modo spodestato dal trono che con Stefanel, Benetton negli anni 70-80 era nostro, cioè la moda low cost l'abbiamo inventata noi. Però, e magari su questo mi potrà anche contraddire, però volevo capire se la scelta deve essere per tutti i piccoli, medi, piccoli, di spostarsi verso l'alto, perché non riesce a competere più con quelle. Sono provoco. Noi abbiamo delle grandi opportunità anche nel basso. Questo lo capire. Quello che è il distretto di Prato, che conosco bene essendo molto vicino, dove ormai la comunità cinese di fatto è più toscana dei toscani, perché sono ormai la seconda generazione, sta cominciando a produrre sul pronto delle qualità assolutamente corrette per quella fascia di mercato, con dei tempi di produzione straordinari, tanto che alcune di queste catene a cui lei faceva prima riferimento oggi stanno certificando questi produttori, forse di fisicamente un look orientale, ma sicuramente con un passaporto italiano, e sono diventati un grande distretto di produzione internazionale molto importante, che probabilmente da qui ai prossimi 10 anni, se ci sarà una buona politica anche sul territorio, riporterà una buona parte della fattura, definiamola low cost, qui in Italia, perché comunque sappiamo fare meglio, e chi ha cominciato a lavorare qui in Italia ha imparato anche, sono nato perché ha studiato in scuole italiane, a fare le cose fatte bene. Il fatto bene anche a basso prezzo in altri paesi ha avuto grande successo negli ultimi anni, stiamo ritornando a fare bene anche qui, anche perché negli altri paesi dove costava poco, oggi il prezzo e il costo del lavoro, il prezzo dei prodotti e il costo del lavoro è cresciuto. Sappiamo che in Cina chiudono imprese, sappiamo che ci sono scioperi, ci sono tensioni sociali, quindi non darei per scontato il fatto che bisogna abbandonare anche queste fasce di mercato. Bisogna trovare delle chiavi di lettura o comunque delle opportunità per anche presidiare queste aree. Non molliamo niente, anche perché il saper fare italiano, e non è un refrain abusato, non è così facilmente replicabile altrove. Questo è poco ma sicuro, anche in termini di materia prima. Ultima domanda che riguarda invece le tendenze che voi avete visto più sul fronte del prodotto, perché noi sappiamo che un errore nel passato è stato anche ritenere con un po' di presunzione che, siccome noi eravamo i portatori del buon gusto a livello mondiale, il Made in Italy si vendesse da solo. E invece poi abbiamo scoperto che i cinesi, nel momento in cui hanno potere d'acquisto, vogliono scegliere loro cosa mettersi. Lo stesso vale per gli indiani, per i brasiliani e quant'altro. Allora, i grandi marchi questo l'hanno capito da tempo e hanno ricollocato o rimodellato le produzioni con un maggior rispetto, se posso dire anche culturale, verso i nuovi mercati, verso chi i soldi ce li ha. Ecco, le tendenze che lei ha visto in atto in questa edizione sono sempre di, diciamo, andare verso, visto che siamo a Pitt, un tailor made, un'offerta tagliata su misura per i diversi mercati? A mio avviso la cosa che si vede meglio è un well made, che poi utilizza, in base alle varie fasce di mercato e le varie sezioni, le caratteristiche proprie della sezione di riferimento. Quindi senz'altro l'Italia sul cosiddetto tailor made, quindi il fatto con identità, il fatto su misura, rimane di riferimento, ma quello che viene fuori è che sempre più si lavora su ricerca, innovazione, prodotto, tessuto, comunicazione. Cioè, è un grande festival Pitt Immagine Uomo, dove si trova, e qui le aziende italiane la fanno da padroni, una qualità di prodotto nelle varie fasce di mercato che non è assolutamente comparabile a quello che si trova negli altri mercati, in particolare i mercati emergenti, che continuano a fare abbigliamento e non moda. Il confine è tra chi produce milioni di paia di pantaloni o di giacche e fa abbigliamento, ed è rispettabilissimo, e chi produce forse centinaia di migliaia di pantaloni e di giacche, però fa moda. Questo è un confine assoluto. Una cosa è fare delle commodity per milioni di capi, una cosa è fare della moda, certo, che di volta in volta sa rinnovarsi e soddisfare la domanda dei mercati internazionali. Sì, mi piace, anche perché spesso anche noi sbagliamo i termini e confondiamo abbigliamento con moda. In un caso è un obbligo, è difficile uscire nudi, nonostante questo caldo invoglierebbe delle volte, però dall'altra parte invece si tratta di to shape the trends, di definire le tendenze future, cavalcarle, delle volte anche imporle. Mi dica un'ultima cosa, dottor Napoleone. Brunello Cucinelli, che tutti penso conoscete e conosciamo, quotato in borsa, il re del cashmere, fatturato che continua a crescere e utili pure, ha detto ieri, vai che si riparte, eravamo saturi di tutto e ora, complice la crisi economica, siamo di fronte a una crisi della civiltà, è arrivato il momento di fermarsi e riflettere, trovo che si sia tornati una bella, sana presa di coscienza civile, morale e politica, è un bellissimo momento. È un bellissimo momento per Cucinelli o per la moda? Per me è un bellissimo momento per il nostro paese, che sta passando attraverso un cambiamento sociale, politico, industriale, che non ha mai vissuto negli ultimi 40 anni. Malauguratamente si porta dietro delle sofferenze, ci dispiace in particolare per i giovani che stanno soffrendo un poco per trovare un impiego, ma mi pare che la strada imboccata sia quella corretta. Non è una speranza fine a se stessa, e chiudo dicendo che l'Europa ha un'opportunità fenomenale adesso, ha dimostrato che come si imballa e quindi entra in difficoltà, i mercati internazionali ne soffrono. La Cina è entrata in crisi perché l'Europa ha rallentato, e altrettanto è successo ad altri paesi. Come l'Europa comincia a rialzare la testa, se non altro perché c'è anche delle capacità di assorbimento enorme tra Europa, Russia, Nord Africa, siamo a oltre 1,1 miliardi di consumatori. Questo è un mercato vero, ma è un mercato molto più maturo degli altri, che hanno le stesse cifre. Quindi giochiamo sull'Europa, è giovane, la comunità è nata 60 anni fa grosso modo, l'euro ce n'è a 12-13, non ricordo bene, è normale che ci siano delle difficoltà e dei riassestamenti da fare. Spendiamo bene i denari pubblici, e sono sicuro che le nuove generazioni, tra l'altro da padre di figlie trentenni, mi rendo conto che hanno tutte le caratteristiche per poter, da una parte, non accettare un sistema di governo che oggi non viene più condiviso, e dall'altra hanno le conoscenze, le competenze, tant'è vero che lavorano in giro per il mondo, per poter aiutare il nostro paese. Allora, in bocca al lupo alla moda italiana, poi parleremo anche di Pitti più nello specifico. Grazie all'amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone. Grazie a voi. E mentre ci saluta l'amministratore delegato di Pitti Immagine, ecco che adesso sente più meglio il microfono, mentre ci saluta l'amministratore delegato di Pitti Immagine, ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi invece il presidente di Pitti Immagine, oltre che industriale della moda, Gaetano Marzotto. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Andiamo in pubblicità, con lei vorrei capire un altro paio di temi già sollevati però da Napoleone. Mi riferisco a come è cambiato il consumatore in giro per il mondo, sia dalla prospettiva di presidente di Pitti che di imprenditore del gruppo Marzotto, ma anche, allora, in questo momento soldi non ce ne sono, ma anche che cosa chiedete al governo. Ripeto, soldi non ce ne sono, vi possono essere invece delle iniziative a costo basso, a costo quasi zero, che agevolino il settore. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Alle 17.39 minuti riprende Focus Economia, tra poco commenteremo chiaramente anche la chiusura di borsa, ma avevo introdotto Gaetano Marzotto in quanto, oltre che industriale della moda, presidente di Pitti Immagine, andando più ai temi istituzionali al di là, però restando anche su quanto riferiva prima Raffaello Napoleone. A mio avviso nel passato c'è stato un errore da parte anche della moda italiana di andare a pensare che il consumatore dei paesi emergenti dovesse per forza comprare il nostro tipo di gusto e quindi il nostro tipo di moda, non di abbigliamento, per restare sulla distinzione che ha fatto prima Napoleone, di moda. Com'è cambiato questo consumatore? Perché i numeri che abbiamo raccontato dimostrano che comunque il grosso o comunque l'aggregato del sistema Moda Italia è riuscito ad andare su questi mercati, altrimenti non avresti queste crescite di export e di fatturati anche fuori dall'Europa. E il consumatore come sta cambiando nel modo e quanto influisce anche la rete, mi chiedono gli ascoltatori. Ci sono buone novità per il Made in Italy, perché ci sono circa 1 miliardo di nuovi consumatori da queste aree, quindi parliamo dell'Asia, ma parliamo anche del Medio Oriente, parliamo dell'Est Europa e del Centro-Sud America, quindi 1 miliardo di nuovi consumatori che hanno redditi simili a quelli europei e che aspirano moltissimo all'eleganza accessibile del Made in Italy. Abbiamo visto il grande sviluppo dei marchi, degli stilisti, dei grandi marchi industriali italiani ed europei. Adesso, secondo me, c'è stata anche un'inflazione e quindi c'è questa possibilità di fare un buon equilibrio del Made in Italy italiano fra desiderabilità, accessibilità e anche esclusività. Il problema è che questi consumatori hanno imparato a capire che cos'è la qualità, qual è la creatività del Made in Italy e anche la capacità di essere artigiani, perché nei 1000 e più marchi che abbiamo qui a Pitti Immagine ce ne sono tantissimi che sono grandi artigiani e che danno una straordinaria attenzione alla qualità intrinseca del prodotto, quindi alla vestibilità, alla adattabilità, ai tessuti, alle finiture, all'eleganza che viene anche dai piccoli particolari. Qual è il problema? Che il consumatore asiatico, il consumatore emergente, ha bisogno di un facile accesso, deve trovare posti facili. Quindi il grande lavoro che sta facendo Pitti Immagine adesso è quello di fare da ponte per i piccoli medi marchi, per farli conoscere, da un lato facendo venire dal mondo, ma soprattutto da questi nuovi paesi emergenti, un sacco di nuovi buyers e nuova distribuzione, perché non sono più i vecchi let's say boutique, exclusive boutique o department store, che sono i grandi magazzini, no, sono i mall, e i mall sono dei landlord, e i landlord non comprano prodotti, affittano spazi, quindi è un salto di qualità. Il piccolo medio produttore italiano deve organizzarsi, consorziarsi e acquisire degli spazi e gestire degli spazi per arrivare a questi nuovi consumatori. E questo è un punto molto, molto importante, perché se ho ben capito la differenza, resto molto intubato come audio, me ne scuso, se ho ben capito la differenza, il punto è, mentre prima la distribuzione consisteva nel dare i prodotti a catene commerciali, al negozio, alla boutique di prestigio in centro, nelle grandi metropoli del mondo, e o anche eventualmente ai department store, quindi ai grandi magazzini, adesso il modello che assomiglia un po', per far capire cos'è un mall, assomiglia leggermente ai nostri outlet come dimensioni, non come prezzi necessariamente, ma il modello è: devi affittare uno spazio, ti mettono a disposizione uno spazio, poi tu devi esserci ad affittarlo, quindi non sei solo quello che fornisce un prodotto, ma devi anche gestire la tua visibilità. Era più facile mandare lo scatolone o gli scatoloni prima, e poi la visibilità alla commercializzazione ci pensava qualcun altro. Questo vale soprattutto in Asia o è una tendenza di tutti i paesi emergenti? È una tendenza di tutti i paesi emergenti ad avere questi grandi shopping mall, che è partita dagli americani e poi si è sviluppata moltissimo, perché permette a ciascun marchio di fare la propria gestione. Quindi i grandi marchi hanno addirittura tantissimi punti vendita retail con questi punti vendita dialogano continuamente e sanno subito quello che il consumatore vuole, quindi sanno reagire e sanno dare il prodotto giusto al momento giusto, con un giusto rapporto prezzo-qualità, e riassortire, perché in questo momento la velocità è fondamentale. Ecco perché noi chiediamo al governo di aiutare PT Imagine in questo sforzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo attrarre qui a Firenze questi nuovi buyers, questi buyers che sono dei compratori, questi landlord, questi proprietari di grandi mall, che devono venire qui a gustare, a capire che cos'è lo stile di vita italiano. Cioè, quindi non qual è il contesto in cui si produce? Appunto, poi non gli piace solo comprare il prodotto, anzi in questo caso non lo comprerebbero nemmeno. Comprano il pacchetto esperienziale, ossia l'esperienza del vivere italiano, quindi del cibo, di andare. Loro, per esempio, quando li incontro mi dicono: ah, che meraviglia le vostre città, Venezia, Firenze, Roma e anche Milano, anche se meno bello. In questo, visto che ho usato l'esempio del vino, ricordo un po' quello che il marketing che sta facendo il mondo del vino, cioè non vendi più solo la bottiglia o il singolo vitigno, in questo caso per voi non vendi solo più il pezzo, il capo di abbigliamento di moda nella collezione, ti devi comprare lo spazio o affittare lo spazio, e soprattutto far capire che dietro questo pezzo di manufatto, diciamo, che poi dell'arte tessile, c'è un mondo, uno stile di vita, un modo di intendere anche la quotidianità, e questo delle volte abbiamo difficoltà a farlo capire. Però faccio notare che il grande successo dell'agroalimentare e della moda italiana in questi ultimi 40 anni è nato perché noi abbiamo saputo 30 anni è nato perché noi abbiamo saputo vendere non il singolo oggetto, ma vendere un Italian way of life, quindi un modo di vivere italiano, e in cui uno si ritrovava sia come gusto enologico, sia come abbigliamento. Un'ultima domanda che riguarda invece i prossimi passaggi di Pitti, abbiamo un minuto per la risposta: le prossime iniziative che farete proprio per portare all'estero l'immagine della moda italiana, ma anche per far capire ai compratori esteri che cosa significhi il sistema Italia? Allora, Pitti riesce a radunare più di 1100 brand in 60.000 metri quadri. Pitti Immagine riesce ad attirare, come dicevo prima, perché ci sono dei prodotti giovani, divertenti, creativi e poi di eleganza accessibile. Quello che noi vogliamo fare è creare sempre di più degli eventi che facciano capire qual è la tendenza della moda, perché quando qui arriva un compratore, oltre che a fare gli ordini, perché quelli che arrivano da lontano fanno gli ordini, e tutti i nostri espositori hanno delle showroom qui a Firenze o a Milano dove poi fanno gli ordini, ma quello che noi vogliamo è che percepiscano proprio questo mondo meraviglioso che è l'Italia, perché noi come italiani ci diamo un sacco di diciamo autofustigazioni, ma siamo un paese meraviglioso dove ci troviamo benissimo e stiamo benissimo sotto certi profili. Non tutti in questo periodo. Io non so che problemi ha col microfono oggi, chiedo ai tecnici di sistemare una volta per tutte, grazie. Dicevo, non tutti ci troviamo così bene in questo paese, perché la crisi la raccontiamo ogni giorno, ma è vero che solo promuovendo un'immagine di questo paese positiva, come sistema positiva, e non come singola azienda, riusciamo e forse riusciremo ad uscirne. A chi sta scrivendo per i suoi troppi inglesismi, faccio notare che almeno alla fine ha detto compratori e non buyers, però è forse l'abitudine a stare con troppi stranieri, esatto. Ma il nostro pubblico è assolutamente italiano, anche di stranieri che parlano l'italiano, ma è assolutamente italiano. Grazie al presidente di PT Immagine, Gaetano Marzotto. Il traffico. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta da Pitti, dell'84 edizione di Pitti Immagine. Adesso torniamo sui temi più classici, non che la moda non lo sia, ripeto, una delle 4A del Made in Italy, ma i temi classici, tra cui anche la borsa, che è peggiorata nel finale, meno 0,94%, Parigi meno 0,55%, Francoforte meno 0,35%, con alcuni titoli interessanti però quanto a movimenti, e mi riferisco sostanzialmente a Mediaset, che alla fine resta il miglior titolo della seduta tra quelli a maggiore capitalizzazione, più 4,70%, Diasorin più 4%, e borse comunque contrastate perché c'è molta attesa, lo dico, per quello che deciderà la Banca Centrale Americana questa sera, la Federal Reserve, sulla politica monetaria. In realtà si vuole capire se le prime indicazioni arrivate un mese fa, e cioè che lentamente potrebbe uscire da questa politica accomodante, nel senso più riparte l'economia americana, più la Banca Centrale Americana alzerà i tassi e soprattutto stamperà meno moneta. Questa è l'indicazione che molti hanno letto tra le righe. Beh, l'attesa è per sapere se questa indicazione prenderà corpo e verrà poi confermata oggi in serata, ora italiana, e quindi un'economia che è ripartita non necessita di tutto quell'aiuto che la Banca Centrale Americana ha dato fino adesso all'economia a stelle e strisce. Dicevo, questo crea comunque incertezza sui mercati, però partiamo subito con i titoli. E allora Mediaset e Diasorin, l'analisi come sempre con Radio Cori sulle 24 ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Sì, Mediaset si è messa in evidenza sin dalle prime battute di questa mattina, i titoli si sono attestati a 2,6 euro, sono saliti quasi del 5%, che dire, oggi c'è anche grande attesa per la decisione che prenderà la Consulta sul legittimo impedimento invocato da Silvio Berlusconi nell'udienza del marzo 2010. Questo ha riacceso un po' i riflettori sul titolo, che ricordiamo nelle scorse settimane avevano frenato e ora hanno ripreso a salire. Poi evidentemente c'è chi scommette in un miglioramento dei conti e forse della raccolta pubblicitaria, anche se proprio ieri Fedele Confalonieri ha gettato un po' acqua sul fuoco e ha detto che non c'è grande visibilità proprio sull'andamento della raccolta. Allora, e questo per quello che riguarda Mediaset. Diasorin? 3,95%, in questo caso a sollecitare gli ordini in acquisto sul titolo sono state le parole dell'amministratore delegato Carlo Rosa, che a Bloomberg ha dichiarato che la società è aperta a partnership strategiche con i principali player della diagnostica, si tratterebbe di Siemens, Abbott, Roche o Johnson & Johnson. E comunque il manager ha anche confermato i target per il 2013, e si sa, in un momento di crisi fa sempre molto piacere al mercato. Poi probabilmente le parole hanno un po' riacceso i riflettori sull'azienda, che così appunto è stata ben comprata in borsa. Allora, gli altri titoli dopo il GR, due risposte rapide a chi scrive: avete fatto una puntata di marchette dedicata alla moda mentre l'Italia muore. No, guardi, marchi qua non abbiamo citati, a parte il fatto che non c'è nulla di male nel parlare con i produttori, perché questo programma si chiama Focus Economia e parla di chi l'economia la produce e la fa, non solo di chi la distrugge. Uno, due, il settore che vale 90 miliardi si commenta da solo. Tre, è uno dei principali settori dell'export, che glielo spiego a fare. che la moda non è solo le modelle, come pensa lei, ma in realtà sono decine di migliaia di dipendenti e decine di migliaia di imprese. A chi invece dice prende esempio dai suoi ospiti, invece di piangersi addosso ogni santo giorno con le sue inutili puntate disfattiste. E vabbè, una ventata di ottimismo, dico solo attenzione al termine disfattista, veniva usato durante il fascismo per contestare chi credeva che la guerra non l'avremmo vinta. GR Focus Economia. Alle 18:08 riprende Focus Economia, stavamo concludendo l'approfondimento di borse e poi passiamo invece agli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, a partire dall'allarme di Confesercenti e poi il decreto anche del governo sulle semplificazioni per le imprese. Leonora Micheli, dicevamo, al di là di Mediaset da un lato e di Assorin dall'altro, Finmeccanica più 2% oggi in borsa, ma è su Finmeccanica. Ieri abbiamo raccontato anche l'impegno per quello che riguarda il Salone Aerospaziale di Le Bourget, in realtà ancora molta incertezza sui vertici, su chi guiderà poi il gruppo. Sì, oggi però le Finmeccanica sono andate bene perché c'è questa notizia che in verità è stata data ieri, che la joint venture Aermacchi e ADS hanno annunciato di aver firmato un contratto per 90 TR con la danese Nordic Aviation Capital. Il valore dell'accordo è di 2,1 miliardi di dollari e ovviamente questo è positivo. E poi si sa, nei giorni in cui c'è il salone aerospaziale a Parigi c'è sempre una grande attenzione a un po' tutto, certo, il settore aerospaziale, perché si scommette sempre che siano fatti annunci o escano notizie magari positive. Il fronte opposto invece vede Azimuth perdere 2,88%, ma molto aveva guadagnato ieri. Telecom Italia meno 2,70%. Oggi ha parlato Bernabé dello scorporo della rete. Esatto, oggi infatti Bernabé ha illustrato al Senato l'operazione di scorporo della rete, una società che dà lavoro a ben 22.000 dipendenti. Bernabé ha ribadito che l'operazione creerà valore, quindi ha espresso termini positivi, ma la borsa evidentemente ha dei dubbi, forse anche perché comunque non sarà un'operazione immediata. Lo stesso Bernabé ha detto che auspica di avere i via libera da parte delle autorità a fine 2013, inizio 2014, quindi la tempistica in verità è ancora lunga e si sa i mercati vogliono tutto e subito. Peraltro anche sul fronte di Tre per ora è tutto incerto e vedremo che cosa succederà con il consiglio di amministrazione di luglio. Ancora tra i titoli, Saipem, volete sapere, oggi in recupero, anche se ce ne vorrà per recuperare il tonfo di questa settimana. Comunque Saipem più 1,37% a 13,90 euro, bene anche Tenaris più 1,5% a 15,22 euro, e di Finmeccanica abbiamo detto Todds più 1,27%, Ferragamo più 0,80%. Chiudiamo sui titoli più sottili, ma migliori e peggiori in assoluto. RCS Rizzoli Corriere della Sera perde oggi il 7,90%, ma Safilo ha avuto un calo molto molto pesante, l'11,40%. Sì, andando un po' in controtendenza invece con i titoli della moda che hai citato tu, che sono andati bene, chissà, forse proprio le notizie da Pitti, o i prossimi giorni inizierà anche Milano Moda Uomo, si spera in un recupero. Invece Safilo con questo meno 11% è determinato dal fatto che all'improvviso e senza che nessuno se l'aspettasse è stato annunciato che Roberto Vedovotto, l'amministratore delegato da tanti anni della società, a metà ottobre lascerà e sarà sostituito invece da Luisa Delgado. E appunto la borsa ha reagito male proprio perché Vedovotto era un po' l'anima dell'azienda, era stato il capo di Safilo dal 2002 al 2006 e poi era stato richiamato nel 2008 proprio dopo che l'azienda era avvenuto un avvicendamento nell'azionariato, ha rilanciato la società, ha fatto anche tutta l'operazione di ristrutturazione del debito e quindi questo annuncio all'improvviso ha un po' stordito evidentemente gli investitori. Grazie, grazie Leonora Michele, Radio Cori sulle 24 ore, migliori e peggiori, no, i migliori non abbiamo dato, che okay, Cape Listed più 17,40, Caring più 5,66 e Screen Service più 5,90%. Grazie Leonora Michele, Radio Cori il sole 24 ore. Una vera e propria ecatombe di negozi e di imprese, quella denunciata oggi dalla Confcommercio tra 2008 e 2013, dalla Confesercenti, scusate, tra 2008 e 2013, fra commercio e turismo ci sono state 224.000 chiusure, mancano l'appello, infatti dice 224.000 titolari e tantissimi collaboratori. La Confesercenti ha fatto anche il calcolo, diviso, non è una bella lista, diviso per categorie, quali tipologie di negozi chiudono ogni giorno. Allora, praticamente ogni giorno abbiamo 5 negozi di ortofrutta che chiudono, 4 macellerie, 42 negozi di abbigliamento, 43 ristoranti, 40 pubblici esercizi. L'intervento molto accorato del presidente di Confesercenti, Marco Venturi. Tra il 2008 e il 2013 i settori del commercio e del turismo registrano un'enorme quantità di chiusure di imprese che, nonostante le nuove aperture, vedono mancare all'appello ben 224.000 titolari e tantissimi collaboratori, familiari e dipendenti. Un'ecatombe difficile da recuperare. Ignorare che ogni giorno in Italia chiudono 5 negozi di ortofrutta, 4 macellerie, 42 dell'abbigliamento, 43 ristoranti, 40 pubblici esercizi è una colpa grave. Negli ultimi 5 anni gli italiani hanno subito un vistoso calo del loro reddito di ben 238 miliardi, pari a 9.700 euro per ogni nucleo familiare. Mentre vorrei ascoltare adesso, abbiamo avuto un problema di collegamento, scusatemi per l'ingresso, vorrei ascoltare quanto ha dichiarato il ministro Zanonato. Perché lo dico? Perché se Venturi si è scagliato anche contro l'economia illegale, che vale l'11% del PIL, pari a 174 miliardi di euro che non subiscono imposizione fiscale, e l'ha definita una concorrenza sleale verso le imprese, Venturi ha detto, come era immaginabile, lo chiedono tutte le categorie del mondo produttivo, no all'aumento dell'IVA e no alla TARES. Dopo 5 anni di austerità è ora di voltare pagina, serve una riforma del fisco che faccia pagare più tasse a tutti ma abbassi anche la pressione fiscale. Gli ha risposto il ministro Zanonato, dialettico sull'IVA, il governo è molto molto prudente, in realtà secondo quello che abbiamo capito dall'intervento anche di Zanonato potrebbe esserci non un'eliminazione dell'aumento dell'IVA ma quantomeno una sospensione dell'aumento dell'IVA, un po' come è avvenuto per l'IMU sulla prima casa. Il governo, con spirito di collaborazione e collegialità, sta facendo tutto quanto è possibile per evitare l'aumento e trovare le coperture alternative. Questa è la volontà. Il gettito dell'aumento dell'IVA è già computato nel bilancio dello Stato, non è una decisione che il governo deve prendere, è una decisione che il governo dovrebbe disattivare. Ed è una voce fondamentale per uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Non è semplice intervenire, quindi, visti i tempi ristrettissimi in cui ci troviamo a operare, lo dico perché sono abituato a non nascondere i problemi e a dire sempre le cose come stanno, mi sono dato anche questo principio, una specie di quarta legge di Asimov, per chi sa quali sono le leggi della robotica, dire le cose come stanno e non in modo diverso, ma vi devo dire con altrettanta franchezza e schiettezza che ogni strada sarà battuta per evitare l'aumento previsto alla fine di giugno. Quindi il lavoro in questa direzione c'è. Vedremo se si arriverà a una sospensione, mi sembra così a naso molto difficile un'eliminazione, ma vediamo se già una sospensione non permetterà di prendere tempo. E dopo le informazioni sul traffico invece cercheremo di capire che cosa sia contenuto nel disegno di legge, che è abbastanza articolato perché sono 39 articoli di legge con diverse misure per la semplificazione amministrativa. È uno di quei temi che spesso tocchiamo perché ci sono riforme in questo paese che possono essere fatte a costo praticamente zero, senza sollevare ogni volta l'obiezione del deficit dei conti pubblici, rendere più semplice la macchina burocratica soprattutto e a partire da chi deve fare impresa. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Minuti, ultima parte di Focus Economia con voi in diretta da Pitti, da Firenze, dalla Fortezza d'Abasso, Sebastiano Barisoni. Allora, oggi alcuni ascoltatori dicono perché non avete fatto la rubrica sugli sprechi, ma perché avremmo dovuto parlare per esempio dei 10 deputati francesi di sinistra e di destra che sono partiti per una crociata contro le proprie pensioni, indennità e conflitti di interesse e vari benefit. La crociata dice semplicemente una cosa: aboliamo i nostri privilegi. È francese, non è italiana. Questa crociata ancora non ce l'abbiamo, o meglio, ci sono dei movimenti politici che l'hanno cavalcata, ma se no avremmo dovuto ricordare anche l'inchiesta della Guardia di Finanza che a Palermo ha notificato 17 ordinanze di custodia cautelare. Tra cui il manager Faustino Giacchetto, il re della pubblicità, la moglie Concetta Argento, gli ex assessori regionali Gian Maria Sparma e Luigi Gentile. Beh, un vero e proprio comitato d'affari, questa è l'accusa. Pensate che usavano i soldi, i fondi destinati ai disoccupati per loro viaggi, ma anche cene e anche appuntamenti con le escort, che mi sembra che uniscano l'Italia da nord al centro e fino al sud, no? 5 delle 17 persone arrestate sono stati concessi domiciliari, hanno sequestrato 28 milioni di euro a Giacchetto, come capitale sociale e beni aziendali di 5 società e dei beni degli indagati. Ci sono anche 40 altri indagati, tra cui molti politici, e appunto il senatore del PDL Francesco Scoma, ex assessore al lavoro, dovrà rispondere anche di corruzione per aver ricevuto 26.000 euro da Giacchetto in viaggi, contributi a spese elettorali, biglietti per lo stadio. E poi l'ex presidente dell'assemblea regionale Francesco Cascio, indagato anche l'ex assessore Santi Formica e Carmelo Incadorna. Praticamente l'attività era quella del Ciapi, che in lombardo rende più l'idea di questa inchiesta, il CIAPI, in realtà vuol dire Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato, ha un contributo di 15 milioni di euro finanziati dall'Europa, dal Fondo Sociale Europeo. Parte di questi 15 milioni venivano invece utilizzati appunto per regalie varie a noti esponenti politici e viaggi, cene e serate con escort. Vorrei invece parlare di una cosa più positiva per chiudere, per non avvelenarci sempre il sangue, ossia il disegno di legge del governo. Siamo in collegamento con il collega del Sole 24 Ore, Davide Colombo. Buonasera Davide. Buonasera. A che punto è? Perché è slittato un po' il Consiglio dei Ministri, l'esame del Consiglio dei Ministri. È iniziato circa un'oretta e un quarto. Quindi fa. Con un'ora e mezza di ritardo. Mm-hmm. Ecco, da quello che tu hai capito, viene confermata l'idea del tutor d'impresa che assisterà l'imprenditore lungo l'ita dei vari procedimenti amministrativi, l'eliminazione di alcuni obblighi, tra cui quello di licenza per le imprese di spedizione, vincoli meno stringenti anche per le imprese di costruzione. Poi ricordavo, per esempio, non c'entra nulla con la burocrazia, però per i lasciti, per l'eredità sotto ai 75.000 euro a favore di coniugi o parenti in linea diretta non sarà necessaria alcuna dichiarazione fiscale. Davide. Sì, sono tutte misure confermate nel testo che abbiamo che abbiamo avuto e che dovrebbe essere quello in questo momento in discussione. È un pacchetto molto articolato, sono 39 articoli, contiene nuove deleghe per il governo, diciamo che è un ulteriore passo avanti di quello che noi chiamiamo il cantiere delle semplificazioni, che è una diciamo è un fronte di policy making a volte un po' trascurato, come dicevi tu prima, a costo zero, ma che produce poi degli effetti tangibili, soprattutto se misurati. Finora sono stati stimati con criteri standard europei oneri complessivi per 31 miliardi, oneri misurati su procedure più pesanti per imprese e cittadini. L'attuazione di tutte le semplificazioni già varate possono ridurre fino a 9 miliardi quel carico burocratico. Non c'è una quantificazione per questo disegno di legge in particolare, invece c'è una quantificazione per le semplificazioni del decreto di sabato scorso, che dovrebbe raggiungere un altro mezzo miliardo. Insomma, è un cantiere significativo che adegua e amplia alcune delle semplificazioni che erano state introdotte con il decreto 5 del governo Monti, quello appunto il Semplifica Italia, che mette a regime una serie di misure e di interventi e che insomma tocca un po' tutti i settori che sembrano quelli che poi fanno più l'economia reale, che hanno una maggiore leva sull'economia reale. Le ditte, ecco Davide, c'è questa la creazione di una banca dati unica, sì, delle amministrazioni pubbliche, che può sembrare un qualcosa così di molto aleatorio, in realtà dovrebbe servire proprio ai comuni nel loro rapporto con le imprese, se ho ben capito. Sì, questa è... Questo diventerebbe una delle infrastrutture su cui poi riposa tutto il meccanismo e che lo rende effettivo, cioè la possibilità di uno scambio di dati tra tutte le amministrazioni locali, le regioni e le amministrazioni centrali, per consentire per esempio che effettivamente si possa far sì che non ci sia più la richiesta di documentazione già in possesso della pubblica amministrazione a un'impresa o a un cittadino che l'ha prodotta in un'altra occasione. È una delle classiche misure di semplificazione che come dire, camminano sulle banche, su una infrastruttura che effettivamente funziona. Così come con questo disegno di legge si introduce un'agenda della semplificazione che sostanzialmente, per fare un paragone, dovrebbe produrre una legge annuale di semplificazione come la legge annuale per la concorrenza, che indica le nuove priorità ma soprattutto il cronoprogramma di attuazione delle misure già varate. Molto spesso le semplificazioni come dire, sono efficaci quando sono bene percepite da cittadini e imprese e soprattutto quando sono ben comunicate, perché in molti casi come dire, la resistenza viene proprio dal privato, cioè c'è una parte di privato che fa le consulenze per esempio alle imprese e che quando vede dei tagli forti di una serie di procedure si vede un taglio della propria parcella di consulenze. E quindi le rendite di posizione anche c'è un filtro consulenze del consulente che spesso fa resistenza, insomma. Ecco, una nota però la devo dare, tu hai spiegato molto bene a cosa servirà questa banca dati unica delle amministrazioni pubbliche, cioè, se posso dirla tutta, che a quel punto io, se ho già presentato un documento per la mia attività di impresa in un comune, non ho bisogno di ripresentare in un altro, esatto. Cioè si scambiano le informazioni, ma la cosa che mi fa un po' sorridere, Davide, è che in un paese normale questo dovrebbe, nel 2013, nell'era della tecnologia, questo dovrebbe già essere, essere operativo. Per esempio un esempio, questa cosa dei dati unici per i procedimenti amministrativi che è stata introdotta con il decreto di sabato è una, come dire, un oggetto che è stato sollecitato con lo Small Business Act del 2008, che diversi paesi europei hanno immediatamente adottato e che, come dire, dà una certezza di agenda su alcune procedure obbligatorie per le imprese, soprattutto per le imprese con una certa articolazione, che in qualche modo facilita le scelte di investimento se uno le deve fare oppure se uno, certo, se uno le deve trasferire, no? Ecco, quella cosa lì è in vigore in paesi come il Regno Unito, l'Olanda, la Francia da più di un anno, sta funzionando molto bene, è stato monitorato molto bene dalla Commissione Competitività ed è anzi indicato come una delle priorità strategiche. Non costa nulla, basta farlo bene e monitorarlo bene per avere in due giorni all'anno, il 1° gennaio e il 1° luglio, la certezza che una grande quantità di procedimenti o di obblighi amministrativi devono essere rispettati. questo, voglio dire, è una segnaletica per chi fa impresa, è molto importante se la usi. Grazie, grazie al collega del Sole 24 Ore Davide Colombo, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia in diretta da Pitti e da Firenze, dalla Fortezza d'Abasso. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani in diretta da Milano dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Focus Economia.